Benvenuti alla lezione con l'Eltorà di oggi. Proseguiamo nello studio della Mishnah, trattato di Rosh Hashanah, capitolo 3, Mishnah 2. Abbiamo concluso con la prima Mishnah di questo capitolo tutto il discorso che riguardava il rinnovo del mese e la consacrazione del Rosh Chodesh da parte del Sanedrin, del Bet Din. E ora, come vedremo, parleremo dello Shofar, come anche accennato la scorsa lezione. Diamo il testo della Mishnah. La Mishnah insegna: Kol ha-shofarot kesherin. Tutte le shofarot, quindi plurale di shofar, shofarot, tutte le shofarot sono kasher per la mitzvah di quando si richiede uno shofar, che non è solamente a Rosh Hashanah. Quali sono i momenti in cui si richiede il suono dello shofar? In realtà, quello più comune per noi oggi è quello di Rosh Hashanah, però abbiamo lo shofar del Yovel, del 50° anno, il Giubileo, che veniva suonato, il Kippur del Giubileo. Lo shofar che noi suoniamo oggi a Kippur non è un obbligo originale della Torah, è qualcosa che è subentrato dopo e per questo motivo non è considerata una mitzvah come lo shofar di Rosh Hashanah, dove c'è la Berachah Asher Kideshanu Bemitzvotav, che abbiamo l'obbligo di ascoltare il suono dello shofar. Il shofar di Kippur di oggi non rientra in questo. Ma il shofar di Kippur dell'anno degli Yovel è sì una mitzvah della Torah. Oggi ovviamente non abbiamo, non segniamo gli anni degli Yovel come si fa quando c'è il Sanedrin, quando c'è la maggior parte del popolo ebraico si trova nel Israele, c'è una diciamo c'è tutto il regime secondo la Torah, allora lì si contano ufficialmente gli anni degli Yovel. Quale altro momento c'è lo shofar? Lo vedremo anche un po' più avanti. C'è nel momento di digiuni particolari che sono stati, che eventualmente sarebbero stati istituiti per un discorso di difficoltà, di sofferenza del momento, come per esempio per una carestia o per una piaga. Esiste un trattato intero di Mishnah e di Gemara che si chiama Ta'anit, trattato del digiuno, che non tratta i digiuni regolari, quindi Kippur, Tisha B'Av e così via, tratta proprio il discorso di come e quando e con quale modalità si istituisce eventualmente, temporaneamente, un digiuno o una serie di digiuni per pregare per un determinato problema. In quel contesto c'è anche il suono dello shofar, ok? Quindi la nostra Mishnah dice: l'oggetto stesso dello shofar che viene usato, con la shofarot kesherin, sarebbero tutti i shofarot kasher, però bisogna definire cosa significa shofar, perché non ogni corno di ogni animale è kasher per lo shofar, quindi c'è qualcosa che si chiama shofar, ed è definito in una determinata maniera, in quel momento è kasher. E ora chiariremo subito, concludiamo prima la frase. Chutz mishel para, tranne che quello della mucca, o ovviamente anche il maschio, quindi il toro, il bue. Cosa stiamo dicendo? Mipnei shehu keren, perché questo non è chiamato shofar, ma è chiamato keren. Keren, anche etimologicamente, se guardate la parola keren, corno, no? Quindi sono le stesse consonanti. Però, cosa stiamo dicendo qui in questa Mishnah? Effettivamente stiamo dicendo che ci sono due definizioni per ciò che può essere un shofar kasher. E ci devono essere entrambi questi criteri per far sì che lo shofar sia kasher. La prima cosa deve essere da un animale che produce un tipo di corno che è in realtà vuoto all'interno, e cioè si estrae la cartilagine interna e rimane la parte, diciamo, ossea, no, all'esterno, che forma lo shofar. Quindi in realtà è qualcosa che è divisibile l'interno dall'esterno. C'è dentro, c'è dovrebbe essere il midollo. Dentro c'è il midollo, esattamente, si estrae il midollo, bravo, giusto? E abbiamo qui Carlo che ha esperienza nel fare questo. Chiaro che il nome shofar significa qualcosa, e i maestri della Gemara approfondiscono cosa può essere la simbologia, diciamo così, nel nome Shofar, e in generale troviamo nei Rishonim due indicazioni generali sul significato della parola Shofar. La prima cosa è Shofar legato alla parola Shefoferet. Shefoferet è come dire un tubo è vuoto all'interno, ok? Quindi questo per parlare della caratteristica fisica dello shofar è anche alluso già nella parola shofar, che è legato alla parola shfoferet. Shfoferet è un tubo o un tubicino in base a quello. Però c'è anche un altro significato nella parola shofar, perché in questo primo rientrerebbe anche quello della mucca, no? Invece ce n'è anche un altro che è dalla parola ishtaprut. Ishtaprut significa miglioramento. L'ishtaper significa migliorarsi, e qualcosa che è molto bello può essere chiamato anche in aramaico shufra, qualcosa di bello, qualcosa di valido, e per arrivarci le ishtaper. Quindi lo shofar ha come funzione l'idea di farci risvegliare verso un miglioramento della propria persona. Ok? E quindi questo è il senso della parola shofar. La parola shofar indica queste due cose. Qualora avessimo un corno che rientra fisicamente nel criterio come quello della mucca, ma non ha la definizione proprio nominativo shofar, non rientra nella mitzvah. Quindi è un caso d'eccezione che ha le caratteristiche fisiche, ma non ha il nome. Per ciò che riguarda tutti gli altri animali, anche kasher, il loro shofar non è kasher perché non è chiamato shofar e non ha neanche le caratteristiche fisiche. Ok? Quindi la nostra Mishnah dice: Kol ha-shofarot ksherin chutz mishel parah, ogni shofar è kasher, tranne tutti quelli che rientrano le caratteristiche fisiche di uno shofar, sono kasher, tranne che quello della mucca, che anche se rientra nelle caratteristiche fisiche, non è kasher per la mitzvah, mipnei sheu keren, perché è chiamato solo keren, non è chiamato shofar. Amar Rabbi Yosè, uno dei maestri della Mishnah, contesta questa posizione del primo Tana della Mishnah. Come lo chiamiamo il primo Tana anonimo? Lo chiamiamo Tana Kama, il primo Tana. Lui dice: Ma vahalo, kol ha-shofarot nikreu keren. Ma tutte le shofarot vengono chiamate anche keren, come detto nel versetto del libro di Josué, al sesto capitolo, è scritto Shenemar. Bimshoch bekeren hayovel è un versetto che parla del suono dello shofar durante il yovele, usa il termine keren e nello stesso versetto alla fine usa il termine shofar, come se fossero due termini interscambiabili ma che indicano la stessa cosa. Quindi dice Rabbi Yosè: Ma scusa, ma perché mi dici che quello della mucca non è valido perché si chiama keren se tutte le shofarot anche si chiamano keren? E la Gemara tenta di rispondere a nome dei Chachamim, degli altri maestri, come risponderebbero loro a Rabbi Yosè. Loro direbbero: è vero che tutte le shofarot si chiamano anche Keren, ma quello della mucca si chiama solo Keren. Per le altre shofarot abbiamo due nomi, sia Keren che Shofar, mentre invece quello della mucca si chiama solamente Keren e non viene mai chiamato Shofar. Quindi questa è la differenza e rimangono della loro opinione. Quindi un fatto di traccia del nome usato in Sì. tutte le scritture, insomma in Sì, qualsiasi fonte. nelle fonti ovviamente Torah Certo, Shebichtav, certo. quindi Torah scritta, i cinque libri Sì, e i in libri dei tutte profeti. le fonti. Sì. Quindi questa è la prima Mishnah che vediamo oggi. Vediamo subito la seconda, che è la terza Mishnah di questo capitolo. Per ciò che riguarda ovviamente questa discussione tra i maestri e Rabbi Yosè, è chiaro che la Halakha segue l'opinione maggioritaria, che non è quella minoritaria di Rabbi Yosè, che sostiene che anche lo shofar della mucca dovrebbe essere kasher, rimane invalido lo shofar della mucca e l'alakha segue l'opinione dei Chachamim. Ora vedremo in questa terza Mishnah un'altra discussione, che però sarà chiarito e arriverà a conclusione nella quinta Mishnah, però vi darò un'indicazione di come sarà l'alakha. Vediamo un po'. Shofar shel Rosh Hashanah. Ora vedete chiaramente che la Mishnah indica lo shofar di Rosh Hashanah, perché esistono shofarot di altri momenti, come dicevamo prima. Quindi quello del Yovel, quello delle Taniyot, dei digiuni. Quello di Rosh Hashanah, la Mishnah ci insegna. Nella Mishnah precedente abbiamo visto in generale quali sono kasher e quali non sono. Ora la Mishnah vuole darci un'indicazione ulteriore per dire, sì, tra quelle che sono kasher, qual è quella migliore? Quella di Rosh Hashanah, che sarebbe quella del corno di montone. Aspetta, aspetta, la Mishnah però non ci arriva direttamente. Certo. La Mishnah non ci arriva direttamente. La Mishnah dice... Aspetta. La Mishnah dice, Shofar Shel Rosh Hashanah, Shel Yael, non del montone, ma del Yael. Il Yael è stambecco? Stambecco. Stambecco, sì, questa è la parola giusta, lo dice anche Rashi. Lo stambecco, che è un corno allungato e semplice, non curvo. Pashut significa semplice nel senso anche di dritto, ok? Ora, vedremo più avanti che l'alaha non necessariamente rimane così, perché giustamente, come diceva Carlo, vedremo che la alaha sarà più verso quello di montone curvo. Però questa è un'opinione. Poi la Mishnah procede parlando dello shofar che si suonava a Rosh Hashanah nel Bet HaMikdash. Quindi le prossime indicazioni che vedremo riguardano solamente la funzione del suono dello shofar all'interno del Bet HaMikdash. Cosa dice la Mishnah? Upiv mezupe zahav. L'apertura, pe letteralmente significa la bocca, piv la sua bocca, quindi l'apertura dello shofar, mezupe è ricoperto zahav. Cos'è zahav? D'oro. È ricoperto d'oro. I maestri che commentano spiegano che non si intende proprio la parte che si mette dove si applica la bocca per suonare, perché lì la bocca deve essere in contatto con lo shofar stesso e non con la copertura d'oro. Però vicino è ricoperto d'oro nel Beit HaMikdash. Ushtei chatzotzrot min hatzdadin. E ai due lati, cioè un Kohen suona lo shofar, alla sua destra e alla sua sinistra si trovano altri due Kohanim che hanno in mano Shtei chatzotzrot, due trombe. Come abbiamo studiato nella Torah, che nel Mishkan, nel Beit HaMikdash, quindi ci sono a volte anche il suono delle trombe, quindi ai lati ci sono le trombe, che anche le trombe vengono suonate. Partono insieme, si inizia a suonare insieme, però non si conclude insieme. Vediamo. Shofar marich. Il suono dello shofar viene allungato, quindi rimane a suonare dopo che le trombe hanno concluso, vachatzotzrot, mentre le trombe mekatzerot suonano un suono più breve, katzar breve. Shemitzvat hayom beshofar. Questo per indicare che la mitzvah particolare del giorno è soprattutto il suono dello shofar. In altre parole, c'è la mitzvah di suonare anche le chatzotzrot, anche le trombe, come è scritto sulla Torah, che nei giorni festivi, anche Rosh Chodesh, Moadim, nel Beit HaMikdash vengono suonate le trombe, ma visto che a Rosh Hashanah c'è la mitzvah particolare dello shofar, allora per far un segno di riconoscimento dell'importanza della mitzvah di Rosh Hashanah dello shofar, si suona tutto insieme, ma il suono delle trombe viene abbreviato, quindi cessano di suonare, mentre lo shofar ancora va avanti a suonare. Ok? Questo è come un segno di riconoscimento dell'importanza della mitzvah di quel giorno, che appunto è Rosh Hashanah. Ok. Cosa succede invece nello shofar dei digiuni? Come già spiegato prima, il concetto dei digiuni istituiti per una tzara, per una sofferenza, per un problema, per una carestia, per mancanza di pioggia, per una piaga, eccetera. Allora vengono istituiti dei digiuni e nella funzione del digiuno istituito ad hoc è previsto il suono dello shofar. E la Mishnah dice, Bataniot, il suono dello shofar, cioè lo shofar fisico usato durante il Tanit, quindi i digiuni fatti appositamente, è meglio usare Beshel Zecharim che Fufin. Usare uno shofar dei montoni, Zecharim significa maschi, ma si intende il maschio della pecora, quindi il montone, Kafuf, Kfufin, cioè curvi. E perché curvi? Per indicare la curvatura del nostro cuore verso il basso, cioè l'umiltà davanti ad HaKadosh Baruch Hu, il porsi in maniera non, diciamo, retta, ma più umile, più curva davanti ad HaKadosh Baruch Hu in quel momento di difficoltà. A differenza di quello che abbiamo detto nella Mishnah precedente, che lo shofar di Rosh Hashanah dovrebbe essere dritto, pashut, semplice, proprio per indicare, diciamo, un contatto diretto tra noi ed HaKadosh Baruch Hu in quel momento, la Mishnah dice invece per il Ta'anit, per la situazione di difficoltà, servirebbe invece la simbologia dello shofar curvo, per indicare il proprio cuore che viene sottomesso, che viene, diciamo, rivolto, prostrato. Sì, tipo il prostrarsi, in questo caso però del cuore, diciamo, indicato nella simbologia dello shofar di quel tipo. Upihen mezupe kesef. In questo caso, invece di essere ricoperto d'oro, lo shofar sarebbe stato ricoperto di kesef, quindi di argento. Ushtei chatzotrot ba'emza. E in mezzo sempre le due chatzotzrot. Perché in mezzo? Prima abbiamo detto Rosh Hashanah, lo shofar in mezzo e due chatzotzrot ai lati. E due trombe ai lati. Perché? Perché lo shofar è l'elemento più importante in quel contesto. È come quando una persona importante viene accompagnata da degli assistenti o da chi lo deve accompagnare, eccetera. È chiaro che la persona importante sta in mezzo. Quindi simile a come lo shofar di Rosh Hashanah sta in mezzo e le due trombe ai lati. Invece nel Ta'anit non è così. Abbiamo due shofarot, una a destra e una a sinistra, e le chatzotzrot, le trombe, invece in mezzo. E al contrario di quanto abbiamo detto riguardo Rosh Hashanah, shofar mekatzer è lo shofar che accorcia il suono, quindi conclude prima, chatzotzrot marichot, e le trombe allungano, quindi concludono dopo, shemitzvat hayom b'chatzotzrot, perché in questo caso del Ta'anit, del digiuno, la mitzvah particolare del giorno, è di suonare con le trombe. Come è scritto sulla Torah, quando farete una preghiera, un digiuno, per un problema, al hatzar hatzorer etchem, per una difficoltà o un oppressore che vi opprime, allora va harre otem b'chatzotzrot. Allora farete il suono della teruah, harre otem, stessa parola di teruah, quindi il suono dello shofar, però con le chatzotzrot. Quindi la cosa più importante nel digiuno sono le chatzotzrot. Questo però solamente nel Bet HaMikdash, se fosse istituito il digiuno. Questa cosa che abbiamo adesso indicato riguardo le trombe e lo shofar del Ta'anit riguarda solamente il Bet HaMikdash. Fuori dal Bet HaMikdash nel momento in cui c'è uno shofar, allora si fa solo con lo shofar e non con le chatzotzrot e non con le trombe. Al contrario, se si usano le trombe non si usa lo shofar. Quindi fuori del Bet HaMikdash o uno o l'altro nel Ta'anit. All'interno del Bet HaMikdash tutte e due. E nella modalità che abbiamo detto, che le chatzotzrot, le trombe allungano perché sono indicate in quel contesto nella Torah. Ora, concludiamo con la quinta Mishnah che ci parla del Yovel, quindi il terzo contesto in cui c'è lo shofar. La Mishnah dice, Shaveh ha-Yovel, il Yovel, quindi la funzione per ciò che riguarda lo shofar, è uguale, Shaveh, uguale, durante il Yovel, il Giubileo, il Kippur del Yovel, le Rosh Hashanah, la Tekiah ve la Berachot. Il Yovel, la funzione del Yovel è uguale a quello di Rosh Hashanah per ciò che riguarda la Tekiah, il suono, e le berachot, Ok? Cioè, se abbiamo detto che per Rosh Hashanah è meglio uno shofar semplice, la stessa cosa si applica agli Ovel. Ok? E per ciò che riguarda le Berachot, non si intende solamente la Berachà di Asher Kideshanu b'mitzvotav, la Berachà della mitzvah dello shofar, si intende le tre Berachot aggiuntive che si dicono nella Amidah per di Rosh Hashanah, il Musaf, cioè Malchiot, Zichronot e Shofarot, la Berachà una che parla del regno di Hashem, la seconda che parla dei ricordi dei tempi passati, e la terza che parla proprio di Shofarot, di Shofar. Tutto questo si applica anche al Kippur degli Ovel, come a Rosh Hashanah. Rabbi Yehuda Omer, ora quello che vi ho detto si concluderà la quinta Mishnah, è questo. Rabbi Yehuda dice, Be Rosh Hashanah tokim b'shel scharim, a Rosh Hashanah si usa lo shofar del montone per ricordare appunto il sacrificio di Yitzhak, che era al suo posto è stato portato il montone dal quale è stato ricavato lo shofar, eccetera, eccetera. Quindi noi vorremmo ricordare questo a Rosh Hashanah, e quindi discute con il Tanakama, con il primo Tana che è stato citato prima nella Mishnah numero 3. Uvayovalot besceglie Elim, mentre invece per gli Ovel si usa quello dello stambecco che è semplice. Com'è la halakha? La halakha segue non uno e neanche l'altro, nel senso che la halakha rimane che in entrambi i casi si dà precedenza allo shofar del montone, sia per Rosh Hashanah che per il Yovel. Quindi la halakha, nella Gemara, si arriva alla conclusione che la halakha rimane così, che quello del montone è preferibile. Ricordiamoci che però gli altri non sono invalidi. Se non avessimo quello del montone, la mitzvah è validissima con quello dello stambecco o la capra, un altro animale che ha lo stesso tipo di shofar e che è kasher, che non sia la mucca o il bue, rimane kasher lo shofar. Qui stiamo parlando della modalità, diciamo, migliore per quello che vogliamo indicare nella nostra tefilà. Ok? Allora con questo concludiamo la quinta Mishnah. Se Dio vuole la prossima volta procediamo in questo capitolo e parleremo di altre problematiche specifiche, di difetti eventuali allo shofar, se lo shofar con un determinato difetto può essere considerato sempre kasher oppure se è ormai pasul, invalido. Vedremo nella prossima lezione.